Uno strumento che sicuramente consentirà loro di avere consapevolezza dei propri diritti, ma soprattutto del percorso che possono fare quando i limiti di pena lo consentono per accedere alla misura alternativa. E detenuti più consapevoli di quelle che sono le possibilità offerte dalla normativa, diventano persone più responsabili nell'affrontare il loro percorso per il rientro nella società. Lo strumento è molto agevole e quindi un ringraziamento particolare a chi lo ha pensato e progettato, è molto semplice, quindi sarà facilmente comprensibile anche da chi non ha grossi strumenti culturali, e sono sicura che potrà agevolare anche il lavoro degli operatori proprio perché facilita la comunicazione e la consapevolezza. In questo momento qual è la situazione del carcere a Bologna? A parte il sovraffollamento, che credo sia una condizione che in questo momento accomuna molti istituti, la situazione all'interno dell'istituto è relativamente tranquilla. Chiaramente al terzo piano la calura si sente particolarmente, però abbiamo adottato alcuni interventi, abbiamo risolto, come dicevo prima, sia pure non completamente il problema dell'acqua, abbiamo dotato le salette del terzo piano di ventilatori per attenuare la calura, stiamo lavorando per dotare tutte le salette di socialità di ventilatori, c'è molto da fare, però non ci fermiamo, siamo comunque impegnati per quello che si può fare. La struttura ha dei grossi limiti che derivano dal fatto che risale agli anni 80, quindi non offre tutte le potenzialità di cui avremmo bisogno per lavorare, però faremo del nostro meglio, siamo impegnati a fare del nostro meglio.